Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Siamo in diretta anche oggi, che è giorno di festa, e però saremo in diretta solamente per un'ora. Chiuderemo la trasmissione alle 18, almeno in questa giornata. Poi domani torniamo regolari e ci sarò ancora io a condurre questa trasmissione. Dopodiché lunedì tornerà Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Bene, innanzitutto ci occuperemo evidentemente della notizia di giornata, che sono le decisioni della Banca Centrale Europea. Il direttivo si è svolto oggi a Francoforte. Cosa ha deciso la BCE? Beh, lo avete sentito in parte anche nel giornale radio, poi approfondiremo e vedremo di capire quali possano essere le prossime mosse di Draghi. Comunque, ha deciso in sostanza che gli acquisti di titoli di Stato che erano previsti, di titoli di Stato e non solo di titoli di Stato a dire il vero, gli acquisti di titoli sul mercato europeo che erano previsti fino al marzo del 2017 nella misura di 80 miliardi al mese saranno prorogati fino al dicembre 2017. A partire da marzo, però, dalla fine di marzo, diminuirà la quantità di titoli acquistati, si passerà a 60 miliardi al mese, con un'opzione che si è lasciato il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e ovviamente di concerto con il direttivo, di innalzare questa quota nel caso che la situazione dovesse peggiorare. Può risalire se serve, ha detto il presidente della BCE Mario Draghi. Come ampiamente previsto, i tassi sono rimasti fermi, quindi da quel punto di vista non c'è stato alcun cambiamento. Tra l'altro la BCE potrà acquistare anche obbligazioni di Stato con rendimento anche inferiore al tasso sui depositi, che al momento è allo zero, è un meno 0,4%. Ancora, il presidente della Banca Centrale Europea ha parlato, per modo di dire, di banche italiane. In realtà ha un po' glissato sulla questione, come in effetti ci si aspettava che dovesse fare. Ha semplicemente risposto ad una domanda su qualcuno che gli ha chiesto: ma non è che lei in questo momento sta aiutando l'Italia in questa fase di difficoltà politica? Dice: no, non stiamo aiutando l'Italia, non siamo di parte, facciamo quello che serve in sostanza per l'Eurozona. E questo sarà il tema principale di questa giornata, insieme naturalmente all'andamento dei mercati, che hanno reagito molto bene alle decisioni di Draghi. FTSE MIB, che in questo momento guadagna l'1,14%, è arrivato a guadagnare nei minuti immediatamente successivi alle dichiarazioni di Draghi e agli annunci della Banca Centrale Europea anche l'1,8%. Comunque 1,16% per il FTSE MIB, 1,15% per il FTSE All-Share, positiva anche Parigi, più 0,8%, Francoforte più 1,79%, Londra è rimasta sostanzialmente invariata, ma del resto siamo fuori dall'area euro, più 0,33%. Per quanto riguarda l'America, in questo momento, così vi do anche gli indici americani, siamo vicini alla parità. Dow Jones più 0,09%, Standard & Poor's 500 più 0,07%, con l'euro che subito dopo le dichiarazioni di Draghi ha messo a segno un balzo, è arrivato a 1,08 sul dollaro, adesso è a 1,06 sul dollaro, quindi un balzo iniziale che poi è stato più contenuto. Comunque c'è una tendenza al rialzo. L'altro tema che affronteremo oggi, insieme a quello della BCE, insieme a quello delle borse, ci soffermiamo su un elemento particolare del no arrivato al referendum sulla riforma della Costituzione, e questo aspetto particolare riguarda le province, perché nemmeno era arrivato il no, o era arrivato proprio da poco, nel pieno della crisi politica, con Renzi che stava salendo al Quirinale, la direzione del Partito Democratico, l'approvazione della manovra. Ebbene, le nostre amiche province, che dovevano essere abolite con la riforma costituzionale, sono tornate a battere cassa. Non l'avreste mai detto, vero? 650 milioni di euro chiedono per l'anno prossimo per quello che potremmo definire l'ordinaria amministrazione. Ci sono tutta una serie di cose anche corrette, se vogliamo, perché le province sotto, come dire, la giurisdizione delle province rientrano anche delle strade, e però fatto sta che tornano a battere cassa. Questi i temi. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Oro in calo, meno 0,4%, a 1169 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, quello quotato a New York, il WTI in guadagno dell'1,75% con la quotazione a 50,6 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, più 1,58% a 53,8 dollari al barile. E a proposito di petrolio, abbiamo le nomine, le ultime nomine del presidente eletto Donald Trump, il presidente americano eletto Donald Trump. Innanzitutto la nomina all'Agenzia dell'Ambiente, l'Environmental Protection Agency, l'EPA, di Scott Pruitt, che è attuale segretario della giustizia Oklahoma, un politico repubblicano, un avvocato da sempre vicino ai big del petrolio, architetto della battaglia legale per cambiare le politiche ambientali volute da Barack Obama, e di fatto è uno di quelli che negano i cambiamenti climatici, o quantomeno l'impatto dell'uomo sui cambiamenti climatici. Nelle sue prime dichiarazioni ha detto che gli americani sono stanchi di vedere miliardi di dollari sottratti alla nostra economia a causa di inutili norme, appunto, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Ed è notizia di poco fa, questa è un'indiscrezione. Il presidente Trump dovrebbe nominare come segretario al lavoro Andy Pasder. Chi è? È l'amministratore delegato di una holding che controlla una catena di fast food. Pasder, che è un consigliere donatore della campagna di Trump, è a favore del taglio delle regolamentazioni che a suo avviso hanno soffocato la crescita dell'industria della ristorazione e contro l'aumento del minimo salariale federale oltre i 9 dollari l'ora. I democratici vorrebbero portarlo a 15. Qualche notizia dall'Europa, ci sono temi, se vogliamo, un po' più relativi alla politica, ma collegati a tutto quello che sta succedendo nel nostro continente, nella nostra Unione Europea. C'è Marine Le Pen che attacca, dice basta scuola gratis per i figli degli immigrati irregolari, dei clandestini. La leader dell'estrema destra francese dice che la solidarietà nazionale si deve esprimere verso i francesi, non si aspettino di essere presi in carico, la ricreazione è finita. Intanto in Belgio ci sono polemiche per temi che riguardano la mobilità interna all'Unione Europea, perché si è appreso che la sanità in Belgio parla sempre meno francese o fiammingo, sempre più italiano o spagnolo. È un boom di medici stranieri. A non belgi è andato il 41,1% delle licenze. Secondo un rapporto riservato del Ministero della Sanità, si suggerisce l'introduzione di test attitudinali o linguistici che possano riaprire le porte a neomedici e infermieri belgi attualmente limitati da rigidi numeri chiusi. Sempre in tema di Europa, in un'intervista di Welt, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Propone un referendum sull'euro. La Banca Centrale Europea, vi abbiamo detto, ha lasciato invariati i tassi di interesse, ha allungato il quantitative easing fino al dicembre 2017. A questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La BCE ha deciso oggi a larga maggioranza il prolungamento del QE, ovvero il programma di acquisto di titoli pubblici e privati, che è un po' lo strumento che consente di fatto l'immissione sul mercato di nuova liquidità monetaria, con la finalità di sostenere la crescita economica, ma anche per centrare l'obiettivo di riportare l'inflazione verso livelli più elevati, ovvero intorno a quota 2%. Bene, questo programma avrebbe dovuto esaurirsi a marzo del 2017, ma oggi appunto il presidente della BCE Mario Draghi ha annunciato che gli acquisti proseguiranno fino al dicembre del 2017, 9 mesi in più, durante i quali tuttavia il ritmo degli acquisti scenderà dagli attuali 80 miliardi al mese a 60 miliardi al mese. Si tratta della conferma di come per la BCE, che pure riconosce un rafforzamento della ripresa economica nell'eurozona, la congiuntura abbia ancora bisogno che venga mantenuto un adeguato sostegno in termini di politica monetaria. Ovviamente proprio su questo si interrogano i mercati, per capire se la mossa annunciata oggi rappresenti un primo passo verso la normalizzazione della politica monetaria. Draghi in questo senso però ha frenato molto, ha esplicitamente detto che la BCE sarà presente sui mercati ancora per molto tempo e ha aggiunto che in caso di necessità il consiglio direttivo della BCE sarà pronto ad aumentare il programma di acquisti sia in termini di volumi sia in termini di durata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dunque, di Draghi avete sentito e ne parleremo tra un attimo. Altre notizie da segnalare oggi? Beh, sicuramente quella che UniCredit ha venduto per 2,4 miliardi di euro il 32,8% del capitale di Bank Pekao all'assicuratore polacco PZU e al fondo statale PFR. In parallelo, al fine di completare la dismissione dell'intera partecipazione, UniCredit intende lanciare un'operazione di mercato attraverso certificati equity linked per cedere il residuale 7,3% detenuto in Pekao, insomma per liberarsene definitivamente. E ancora l'ultima notizia, c'è quella che ormai conoscerete, che ieri non vi abbiamo dato perché è arrivata più tardi. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto a ribasso le prospettive per l'Italia, ha confermato il suo rating sul nostro paese, Baa2, e però ha rivisto l'outlook, ossia le prospettive, da stabili a negative. A pesare, spiega l'agenzia, sono i lenti progressi nelle riforme, le cui prospettive sono ulteriormente diminuite con la vittoria del no al referendum. E infine, i dati diffusi dall'Istat e che riguardano le famiglie italiane e quanto sono indietro con le rate dell'affitto o del mutuo. È il 5,4% delle famiglie. Il dato è relativo al 2015 e andando a ritroso nella serie dell'istituto risulta il più alto dall'avvio della rilevazione nel 2004, quindi almeno da 11 anni. Veniamo al primo tema di questa giornata, che è naturalmente la BCE. Poi tra poco ci arriveremo alle province, perché già qualche ascoltatore ci scrive in un messaggio, diciamo, troppo lungo su WhatsApp, un po' troppo lungo perché lo legga interamente, ci dice: guardate, là il problema non sono le province in sé, ma insomma il fatto che comunque poi i dipendenti vengono ricollocati. Come dire, che le spese in realtà non diminuiscono questo granché. In realtà le spese per le province sono diminuite negli ultimi anni, anche abbastanza nettamente. Però ci arriveremo tra un attimo a questo tema. Comunque, come si diceva, perché si fosse messo in collegamento solo ora, il punto è esattamente il fatto che sono tornate a battere cassa appena finito il referendum che avrebbe dovuto abolirlo. Si diceva, Banca Centrale Europea che decide di prolungare il quantitative easing fino a dicembre 2017, lascia invariati i tassi di interesse come previsto. Iniziamo sentendo una voce del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, proprio appunto sull'acquisto di titoli. As regards non-standard monetary policy measures, per ciò che riguarda le misure straordinarie di politica monetaria, continueremo il programma di acquisti all'attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. Da aprile 2017 gli acquisti continueranno ad un ritmo mensile di 60 miliardi di euro fino a dicembre 2017, o oltre, se necessario. In ogni caso, finché non vediamo un aggiustamento significativo nel percorso dell'inflazione in linea con il nostro obiettivo. Se nel mentre lo scenario diventa meno favorevole o se le condizioni finanziarie si discostano dai progressi del cammino verso l'aggiustamento dell'inflazione, il Consiglio intende aumentare il programma in termini di dimensioni e o di durata. Le due opzioni presentate su come prorogare il piano di acquisto titoli erano state studiate dai comitati nei mesi scorsi. La prima prevedeva di proseguire con acquisti da 80 miliardi di euro al mese per 6 mesi. La seconda, quella adottata, ha ricevuto un grande consenso all'interno del Consiglio. And the other one is the one that was that received a very very broad consensus by the governing council. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, inizierei proprio da qua. Una mossa attesa, forse solo in parte, perché mi era sembrato di capire inizialmente che si ipotizzavano 6 mesi, forse anche 9, ma era l'ipotesi un po' estrema, no? Di allungamento del quantitative easing. Ma sui mercati l'attesa, diciamo, della stragrande maggioranza degli economisti, degli osservatori, degli operatori era per un prolungamento di 6 mesi per 80 miliardi di euro al mese. E come sempre Draghi, o come spesso fa Draghi, ha un po' sparigliato, diciamo, nel senso che ha fatto 9 mesi per 60 miliardi di euro al mese. L'importo totale è maggiore perché si tratta di 540 miliardi invece di 480, però l'importo mensile è più basso, quindi c'è una riduzione che in un certo senso piace o fa piacere ai membri più conservatori del Consiglio. Al tempo stesso però c'è un mantenimento di questo stimolo monetario per un periodo più lungo di quello che ci aspettasse. Se ci aggiungiamo poi che c'è una clausola in quello che Draghi ha detto, cioè che possono tornare a 80 in qualsiasi momento se le condizioni potessero peggiorare, di fatto lui stesso ha detto in conferenza stampa, non c'è un fine vero e proprio, anche perché una volta finito il 2017 difficilmente si passerà da 60 a 0, quindi ci sarà un periodo di riduzione graduale, della quale però per il momento, dice Draghi, il cosiddetto tapering, di questo per adesso ancora non si è parlato. Per adesso è sul tavolo questa continuazione del QE, cioè questa continuazione di acquisti titoli a 60 miliardi per 9 mesi. E anche un po' la testimonianza, mi sembra Alessandro, che non è che stia funzionando un granché il QE dal punto di vista dello stimolo monetario, o sì, o sta funzionando a macchia di leopardo a seconda delle varie zone dell'area euro? Questa non è l'interpretazione di Draghi. Lui dice: se non avessimo avuto il QE avremmo avuto un'inflazione molto più bassa e anche una crescita più bassa. È evidente che nell'area euro le diverse economie rispondono in modo diverso, ma questo in parte anche per ragioni strutturali che ben sappiamo, insomma, quindi diciamo che qui sta funzionando, ma è chiaro che funziona meglio in certi paesi che in altri. È chiaro che per esempio in un paese come la Germania, dove tutto sommato certe riforme sono state fatte prima e tutto sommato il sistema bancario ha meno difficoltà che non per esempio che in Italia, è chiaro che è più facile trasmettere, diciamo, gli impulsi che vengono dalla politica monetaria. In Italia, dove le banche sono le prese con il problema appunto dei crediti deteriorati, di una capitalizzazione insufficiente, non è che proprio siano portate a prendere questi soldi dalla BCE e a fare una grande espansione del credito, per esempio. Sì, l'Italia è un ottimo esempio. Tra l'altro, a Draghi sono state rivolte delle domande specifiche sull'Italia da voi giornalisti in conferenza stampa. Iniziamo a sentire una risposta, vediamo se riusciamo. Via. The vulnerability is that both the banking system and Italy have been there for a long time. They ought to be coped with. I'm confident the government knows what to do and they will be dealt with. Ask the supervisory board for an answer. Come sentite, insomma, risposte molto molto secche anche sul tema, sulle ipotesi che sono circolate di una richiesta da parte dell'Italia dell'intervento del Fondo Salva Stati per Monte dei Paschi, ossia l'ISM. Sentiamo cosa ha detto Draghi. Ce l'abbiamo? No, of course I'm not biased. No, ovviamente no, non siamo di parte. Abbiamo dimostrato tante volte che la politica della BCE è decisa innanzitutto dal Consiglio direttivo e noi non siamo qui come rappresentanti dei nostri rispettivi paesi, io meno degli altri. Il nostro mandato non è garantire un qualsivoglia obiettivo nazionale, ma garantire l'obiettivo della stabilità dei prezzi in tutta la zona euro. E questo è quello che abbiamo fatto. Devo confessare che so davvero molto poco di questo prestito dell'ISM all'Italia per il suo sistema bancario. Loan to Italy for the banking system. E qua la prima parte della risposta, Alessandro, immagino che fosse ad una domanda se in questa fase di difficoltà politica, di tensione con tutto il tema della crisi di MPS sullo sfondo e dei problemi delle altre banche con le sofferenze, se in questa fase Draghi non stesse supportando in particolare l'Italia, no? E lui ha risposto, ha detto no, assolutamente. Sì, ha detto non facciamo favoritismi. Secondo me sull'Italia i messaggi sono due. Uno è quello delle riforme. In pratica ha detto chiunque sia il governo o comunque vadano le cose dal punto di vista dell'incertezza politica, questa è proprio la domanda che gli ho fatto io, le riforme comunque devono andare avanti. E questo è un punto importante. L'altra cosa riguarda le banche, da un lato ha detto anche lì chiunque sia il governo comunque deve affrontare questo problema, sono vulnerabilità note da tempo. Ma ha anche detto, attenzione, il problema delle banche italiane non è il problema che l'Italia aveva 5 anni fa quando metteva a repentaglio addirittura la sopravvivenza dell'euro, siamo in una situazione ben diversa. E quella risposta sull'ISM, secondo me, anche se Draghi ha fatto finta di non saperne niente, è abbastanza rivelatrice. Cioè, ha letto un articolo dello statuto dell'ISM in cui si dice che questo ricorso a questo fondo salva stati è possibile solo se non ci sia nessun altro modo per ricapitalizzare le banche, cioè se non ce la facciano i capitali privati, se non ce la faccia il governo del paese, allora a quel punto si può andare all'ISM. Mi sembra di capire che Draghi, anche se non l'ha detto, sia dell'idea che queste condizioni in questo momento per l'Italia non ci sono, tanto perché si tratta non di un problema del sistema bancario in suo complesso, come era il caso della Spagna con la crisi dell'immobiliare nel 2012, ma di alcune banche ben circoscritte, insomma. Poi, una in particolare, insomma, che è Monte dei Paschi, naturalmente. Ecco, poi una in particolare, poi gli altri casi sono casi molto più piccoli, insomma, per cui mi sembra di capire da quello che ha detto Draghi che non ravvede la necessità di un intervento sistemico di grandi proporzioni o comunque con questi fondi europei. Con tutto questo Draghi ha detto che le vulnerabilità ci sono e durano da anni, insomma non è che sottovaluti il problema naturalmente. C'è l'ultimo punto sul quale ti vorrei, Alessandro, è questo. Mi scrive un ascoltatore, tra l'altro me lo scrive via Twitter, ma dice: ma il fatto che Draghi già immagini la possibilità di portare il quantitative easing, che da marzo dovrà essere a 60 miliardi di euro al mese, immagini l'ipotesi di poterlo alzare ulteriormente, vuol dire che forse presagisce già che le cose non andranno per il verso giusto, o secondo te è semplicemente, come dire, un avviso di cautela e un segnale al mercato a dire siamo pronti, non vi preoccupate a coprire qualsiasi evenienza? Ma credo entrambe le cose. Credo che Draghi fosse preoccupato della seconda ipotesi che hai detto, cioè del fatto che i mercati potessero prendere male questa riduzione degli importi di acquisti mensili e quindi far salire i rendimenti di mercato vendendo bond, soprattutto dei paesi più deboli come l'Italia. E quindi ha tenuto a precisare che comunque questi importi possono risalire qualora ce ne sia bisogno. Insomma, siamo flessibili e pragmatici, ha detto a un certo punto. E l'altra cosa invece è il primo aspetto che hai toccato, cioè il 2017, e qui ancora le parole di Draghi, sono un anno di volatilità, soprattutto politica, dappertutto. Quindi c'è questa riduzione perché stiamo andando nella direzione, diciamo, dell'inflazione, che seppure molto lentamente risalirà quest'anno e l'anno prossimo. Però ci teniamo aperta questa possibilità perché lo scenario è molto incerto. Si vota in Francia, si vota in Germania, insomma non è un anno semplice. Si vota in Olanda, si voterà forse in Italia. In Italia, quindi, certo. Insomma. Certo. Allora, le più grandi economie dell'area euro. Certo. E io ti ringrazio. Grazie come sempre ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per la sua chiarezza, l'analisi e i dettagli. Infine, prima di chiudere questo capitolo e poi passare dopo la pausa alla borsa e poi a parlare, come si diceva, di province, ci sono le parole di Pierre Moscovici, che è appunto il commissario agli affari economici europei. Dice: la crisi politica in Italia non può far vacillare l'Europa e l'Europa non teme nessuna crisi bancaria. Ascoltiamolo. D'abord, je veux rendre hommage à Matteo Renzi. Il a été premier ministre pendant près de 1000 jours. Il a réformé un pays qui en avait besoin. Innanzitutto voglio rendere omaggio a Matteo Renzi. È stato primo ministro per quasi 1000 giorni. Ha riformato un paese che ne aveva bisogno sul piano economico, sociale e politico. Ha voluto una riforma costituzionale che portava cambiamento e che gli italiani non hanno voluto. Non è una crisi europea. In Italia c'è una crisi, come spesso capita, ma c'è continuità allo stesso tempo. C'è un partito che ha la maggioranza nelle due Camere e c'è un uomo, Matteo Renzi, che comunque mantiene il potere. Ora il Presidente avvierà le consultazioni per fare un nuovo governo. Se questo governo durerà qualche settimana o mese per preparare le elezioni o per preparare la legge elettorale, sono ipotesi. In ogni caso ci sarà continuità dello Stato, delle responsabilità. Per ciò che riguarda le banche italiane, su cui ci sono discussioni in corso nelle diverse istituzioni, i problemi non sono cambiati dalla scorsa settimana, non si sono aggravati. È un tema seguito con grande attenzione e ci sono strumenti validi. In Europa abbiamo la capacità di affrontare tutte le situazioni bancarie, quindi non temiamo alcuna crisi bancaria. E se vedete le reazioni dei mercati, sempre attenti a questa vicenda, salvo la prima mattina dopo il referendum con la vittoria del no, sono stati calmi. Hanno avuto motivi per farlo e hanno ragione di farlo. Ils sont très sereins et ils ont des raisons et ils ont raison de l'être. E intanto arriva notizia che secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung capo della Bundesbank Weidmann avrebbe votato contro la decisione di estendere l'acquisto di titoli da parte della BCE. Pausa con il meteo, ci ritroviamo subito dopo e parliamo dei mercati. Milano chiude con un rialzo dell'1,64%, quasi sui massimi. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Claudio da Torino ci scrive al 349-238-6666: se la democrazia è il migliore sistema politico, come mai tanta paura per le elezioni? Vede, non è paura per le elezioni, è più che altro paura dell'incertezza, perché se non sai che governo ci sarà, che politiche metterà in atto, le aziende potrebbero decidere di investire di meno, arrestare le assunzioni e quindi ci sarebbero meno consumi, la situazione economica si potrebbe deteriorare. Poi che cosa succederà? Dipende da chi vince. Se vince, con i partiti euroscettici dappertutto, che cosa accade dell'Europa? A fronte di questa incertezza, Draghi si dice: siamo pronti eventualmente a spingere più in alto il quantitative easing. Non è un problema di paura delle elezioni, è un problema di incertezza e eventualmente appunto di paura di quali possano essere i risultati. La borsa che chiude quasi sui massimi, più 1,64% il FTSE MIB, più 1,6% il FTSE All Share. Bene, molto bene le banche: Popolare Milano più 10,09%, Banco Popolare più 9,75%, Mediolanum più 7,7%, e Monte dei Paschi più 4,11%. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, che giornata è? Sì, oggi, nonostante la festività, è una giornata che ha richiamato l'attenzione degli investitori, soprattutto perché parlava Draghi. Le banche, come hai detto tu, sono state le protagoniste assolute, in particolare sotto la lente Unicredit ed MPS, visto che entrambi devono confrontarsi con un importante piano di ricapitalizzazione. MPS è andata bene, in verità ha chiuso sotto i massimi, durante della giornata era arrivata a segnare un progresso di oltre il 6%, ha chiuso più 4%. Il Consiglio di amministrazione ha chiesto tempo alla Banca Centrale Europea, che a questo punto dovrà pronunciarsi a breve, e il Sole 24 Ore ipotizza che nel caso in cui la Banca Centrale Europea non desse la possibilità al Monte dei Paschi di rinviare a gennaio il piano di ricapitalizzazione, potrebbe a quel punto intervenire lo Stato stesso con un Consiglio dei Ministri che potrebbe riunirsi addirittura sabato. Per quanto riguarda Unicredit, invece, in questo caso sale l'attesa per la presentazione del piano industriale, durante il quale dovrebbe essere annunciata una ricapitalizzazione, si parla attorno ai 13 miliardi. Ieri Mussier non ha voluto commentare, ha detto che comunque non avverrà l'intervento statale. Intanto quest'oggi la banca ha venduto Banca Pekao, la controllata polacca, incasserà dall'operazione 2,4 miliardi di euro, e poi c'è chi sostiene che già prima di martedì, forse lunedì, potrebbe cedere anche la controllata che agisce nel risparmio gestito Pioneer, incassando oltre 3 miliardi di euro. Pare che in pole position sia la francese Amundi. In tutto ciò Unicredit appunto guadagna il 2,9% e ha oscillato molto nell'arco della giornata, perché è arrivata a rialzi nell'ordine dello 0,4% circa. Eleonora, abbiamo una serie di energetici negativi: Terna meno 2,10, Saipem meno 1,9, Snam meno 1,09, Tenaris, anche se vogliamo rimanere nell'ambito più o meno petrolifero, meno 0,93%, nonostante il petrolio, l'abbiamo visto prima, sia in rialzo, no? Esatto, e nonostante peraltro il sottoindice europeo dell'energia sia andato bene, abbia fatto infatti più 0,7% praticamente, però evidentemente oggi, complice anche la giornata festiva, gli investitori hanno deciso di alleggerire il portafoglio dai titoli petroliferi, nonostante il WTI proprio in questo momento stia segnando un progresso dello 0,7%. Bene anche alcuni industriali: ST Microelectronics più 4,76%, alcuni assicurativi come Generali che guadagna il 4,5%. Bene, per quanto riguarda Generali, tra l'altro anche qui continuano le ipotesi che ci potrebbero essere delle operazioni straordinarie in vista, anche se di recente il numero 1 Donne ha escluso, però si dice appunto che potrebbe essere sul tavolo l'ipotesi di una fusione con AXA, tant'è che sembra, sempre da indiscrezioni che tuttavia non sono state assolutamente confermate, che Generali sia in trattativa per vendere la controllata francese, proprio per facilitare l'operazione anche dinanzi agli occhi dell'antitrust. Bene anche Mediaset più 2,85%, Mediobanca più 2,7%, Prismian più 2,48%, Azimut più 2,23%, Fiat Chrysler più 1,98%. Grazie Eleonora Micheli, buona serata. Buona serata. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi ci riserviamo qualche minuto per parlare delle province che battono cassa. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E c'è questa specie di limbo perché la riforma del Rio del 2014 aveva alleggerito funzioni e personale delle province. In vista di cosa? In vista del fatto che sarebbero state abolite con la riforma della Costituzione. Ma la riforma della Costituzione non è passata. E quindi Gianni Trovati del Sole 24 Ore, le province manco sono arrivati, manco è finita la crisi di governo che già iniziano a battere cassa. Esatto, buonasera a tutti. Ma buonasera. Il problema è che le province, diciamo, sono la versione grossa del CNEL, no? Il CNEL vive appunto in questo limbo da molti anni, era uno dei due simboli, insieme alle province, dei costi della politica da, come dire, azzannare nella propaganda della riforma costituzionale. La riforma costituzionale non è passata. E però le province, a differenza del CNEL, fanno una serie di cose, o quantomeno dovrebbero. In particolar modo dovrebbero gestire 100.000 chilometri di strade provinciali, appunto, e scaldare, manutenere, fare le ristrutturazioni delle 5.000 scuole superiori che sono a loro carico, diciamo così. La condizione delle strade e la condizione delle scuole, degli edifici scolastici, sono l'indicatore migliore degli effetti di questo limbo. Perché, certo. come dicevi tu, sostanzialmente la riforma del Rio e la finanziaria del 2015 che è arrivata appena dopo erano l'antipasto di una soppressione. Sì, erano tarate esattamente su un sì alla riforma costituzionale, quindi a un'abolizione definitiva, no? Sì, erano una serie di misure per accompagnare le province all'uscita dall'orizzonte amministrativo e dalla Costituzione. Il problema è che la Costituzione promossa dal referendum, cioè quella che c'era già, dice che la Repubblica italiana è articolata in Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni. Di conseguenza la situazione di limbo finanziario che caratterizza le province non va più tanto d'accordo, diciamo, con la situazione istituzionale. L'orizzonte dell'anno prossimo, l'ultima tranche di tagli che era stata prevista appunto dalla finanziaria attuativa, diciamo così, della Del Rio, sostanzialmente tutte salterebbero. Lo dicono loro, ma lo dicono anche i numeri del Ministero dell'Economia. Sostanzialmente il dissesto non è in discussione, è solo che bisogna trovare il modo di evitarlo. Eh sì, perché spesa corrente di 4,8 miliardi, finanziata per lo più con tasse sull'auto, e che in realtà solo due anni fa era di molto superiore, Gianni, no? Era quasi doppia. I trasferimenti statali alle province non esistono più da anni. Il contributo alla finanza pubblica, tagli che le province hanno subito poi, si trasformano nel fatto che questi tributi sulle auto, che sono provinciali, di nome, vengono trasferiti di fatto in larga parte allo Stato. Quindi tu automobilista paghi l'imposta provinciale di trascrizione quando compri un'auto. Il 50%, 60%, dipende da caso a caso, di quello che tu paghi va allo Stato, ma la provincia non ti asfalta la strada. Questa è la condizione. Allora, vedremo che cosa succederà a queste province, appunto, nel limbo. Qualche ascoltatore dice, si parla di sostituzione di provincia con città metropolitana. No, non è esattamente così. Le città metropolitane sono meno delle province. Comunque, vedremo che cosa succederà anche alle province. Intanto grazie a Roberta Frisani in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in assistenza in redazione. La trasmissione torna domani alle 17, noi ci risentiamo alle 13, prima delle 17, con effetto giorno. Radio 24, libera la voglia di fare.